La glossolalia, ossia parlare in lingue sconosciute. Una corrente religiosa cristiana professa la seguente confessione di fede. Crediamo al battesimo nello Spirito Santo come esperienza susseguente a quella della nuova nascita, che si manifesta secondo le scritture con il segno del parlare in lingue. Per alcuni credenti, quindi, il parlare in lingue non è qualcosa che capita tra capo e collo, come una tegola caduta dal tetto, ma costituisce proprio un articolo di fede quanto il valore della salvezza per grazia, mediante la fede. Dal tempo della Chiesa di Corinto, fondata dall'Apostolo Paolo, l'argomento del parlare in lingua è stato sempre ragione di discussione e a volte purtroppo anche ragione di divisione. Perciò è impossibile tacere al riguardo. La cosa difficile non è parlarne, ma essere obiettivi nel discuterne, cosa che, per quanto a qualcuno possa sembrare offensivo, è molto difficile, se non quasi impossibile. Perché per un credente è quasi impossibile essere libero da ogni preconcetto nel leggere la parola di Dio, per quanto egli sia motivato dal sincero desiderio di fare la volontà di Dio? Perché avere un sano motivo non è sufficiente per comprendere rettamente la parola di Dio, dato che questa deve essere afferrata con la nostra mente, la quale ubbidisce alla regola dei presupposti, che sono nientemeno ciò che è posto a fondamento del nostro pensiero, prima di ogni altro ragionamento o argomentazione. Se due discutono sul valore della Bibbia e uno di loro parte dal presupposto che essa non è la parola di Dio, mentre l'altro la pensa al contrario, va da sé che non ci sarà intesa, non tanto perché non sanno discutere, ma perché i loro presupposti sono diversi. Così è nel comprendere la parola di Dio. Dobbiamo ammettere, mediante un atto di onestà mentale, che tutti siamo condizionati dalla cultura e dal grado di conoscenza ricevuti. E dobbiamo anche non rammaricarcene, come se fosse un peccato. Siamo solo esseri umani. Perciò, anche nell'affrontare l'argomento della glossolalia, cioè la possibilità di esprimersi in una lingua mai studiata e che rimane sconosciuta a chi si ritrova, ciò nonostante, a farne uso in un dato momento, è inevitabile che ci siano pareri diversi, opinioni ovviamente tutte basate sulla Bibbia. Ma, come abbiamo detto, non a caso lo abbiamo messo come premessa, dalla Bibbia purtroppo si possono trarre le conclusioni più disparate e impensabili. Perciò nulla di strano che i credenti abbiano pareri disuguali. Ma questo non sarà motivo di scoraggiamento e di divisione se chi ne parla non lo fa con l'intenzione di dimostrare il torto del proprio interlocutore, anche se per forza di cose la verità resta una sola. Rileggevo di recente il libro di James Primo Packer, Conoscere Dio, e con sorpresa ho notato l'introduzione di una nota, proprio un appunto perché non trattava del tema in trattazione, in merito all'amore di Dio che ha inondato il nostro cuore per opera dello Spirito Santo. In queste poche righe balzate ai miei occhi l'autore si esprime così. Si osservi che l'infusione di questa conoscenza è descritta come parte del normale ministero dello Spirito, verso coloro che lo ricevono, tutti quelli, cioè, che sono nati di nuovo, tutti quelli che sono veri credenti. Magari questo aspetto del suo ministero fosse maggiormente apprezzato attualmente. Con una perversità tanto patetica quanto rovinosa siamo diventati oggi talmente interessati agli eccezionali, sporadici e non universali ministeri dello Spirito, da trascurare quelli ordinari e generali. Dimostriamo così molto più interesse per i doni di guarigione e di lingue doni che, in ogni caso, come fece rilevare l'Apostolo Paolo, non tutti i cristiani devono necessariamente possedere, 1 Corinzi 12.2829, che per la normale opera dello Spirito che consiste nel dare pace, gioia, speranza e amore mediante lo spargimento nei nostri cuori della conoscenza dell'amore di Dio, eppure quest'ultimo è il più importante dei primi. Ai Corinzi, che avevano dato per scontato che quanto più abbondavano le lingue tanto più c'era gioia e spiritualità, Paolo dovette sottolineare con insistenza che senza amore, santificazione e somiglianza a Cristo le lingue non contavano proprio nulla. 1 Corinzi 13, 1 SG. Senza dubbio, anche oggi, l'Apostolo avrebbe ben ragione di pronunciare un analogo ammonimento. Voce della Bibbia, 1995. Pag. 115. Mi ha fatto piacere notare che Pacer sia arrivato alla mia stessa conclusione in merito all'amore. Perché ho proprio nel cuore il desiderio di vedere il dono delle lingue sotto la lente di ingrandimento dell'amore. Dato che, senza ombra di dubbio, l'amore è la virtù più importante, tanto importante, da sminuire il valore delle altre virtù, compreso il dono delle lingue. Perciò le mie riflessioni non sono a favore o a sfavore del dono delle lingue, ma semplicemente per vagliare questa virtù al setaccio dell'amore. E forse è sbagliato. Per forza di cose occorre leggere ciò che ha scritto Paolo in merito, con la preghiera di poterne capire il significato vero spogliato da qualsiasi preconcetto. Non cercherò il supporto di tanti versetti della scrittura presi qua e là, ma mi limiterò a vedere il contesto del discorso, perché è in questo modo che si può comprendere bene ciò che uno dice. Accennando ai doni spirituali, Paolo fa un paragone fra il corpo umano e il corpo di Cristo, dicendo: «Voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori. Poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza e di governo, e la diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono di potenti operazioni, hanno tutti i doni di guarigioni, parlano tutti diverse lingue, interpretano tutti. Ora voi cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia. Non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. 1 Corinzi 12, 27-13, 1-8. Dunque, chi parla in lingue non fa altro che rendere noto uno dei tanti doni manifestanti la presenza dello Spirito Santo nei credenti, dono che ha la sua collocazione. Paolo non lo disprezza, ma lo nomina due volte per ultimo, 12.7-10, 12.2-8, e mette in evidenza che non tutti hanno questo dono, 12.30, dono che, del resto, verrà abolito, 13.1-8. Proprio per questo, l'Apostolo invita i credenti a cercare i doni maggiori, 12.31, i doni che edificano, 14.12, come quello di profetizzare, 14.13, 14.40, perché chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, 14.5. Ecco perché Paolo, purché arrechi edificazione, non è contro il parlare in lingue. 14.26. Perciò il parlare in lingue non è ritenuto dall'Apostolo né un problema, o tanto meno sbagliato. L'importante è che il suo esercizio sia utile alla Chiesa. Ciò che rende preziosa una cosa non è il valore in sé, ma il suo uso. Perfino l'oro, così tanto prezioso, se non viene utilizzato in fin di bene, non serve nulla. Anzi, procura danno. Anche se non è contro il ministero del parlare in lingue, Paolo lo vede come un dono inferiore agli altri. E questo almeno per 9 motivi. 1. Perché chi parla, parla solo a Dio. 14.2. 2. Perché non si capisce ciò che dice. 14.2. 3. Perché chi ne fa uso edifica solo se stesso. 14.4. 4. Perché chi parla, in lingue, parla il vento. 14.9. 5. Perché un barbaro o uno straniero per chi ascolta Rai. perché l'intelligenza rimane senza frutto, cioè non viene usata 14.147, perché chi ascolta, se non capisce, non può neppure dire Amen, 14.168, perché le lingue sono un segno per i credenti e non per gli increduli, 14.22. E se il nostro scopo principale è quello di annunziare l'Evangelo ai perduti, perdiamo un'occasione. Inoltre, 9. Se tutti parlassero in lingue, dato che, secondo alcuni, tutti i veri credenti devono parlare in lingue, ed entra un estraneo o un semplice uditore incredulo, nel sentire parlare una o più persone in lingue a loro stessi sconosciute, penserebbe di trovarsi di fronte a dei pazzi. 14.23. Mai S e il Nuovo Testamento, ITOTA, Nuovo Testamento OI, aspetti NEG Antico Testamento, IVI, in merito a DUN dono. Che cos è allora questo parlare in lingue dato che l'Apostolo si pronuncia in merito proferendo cose sfavorevoli? E la possibilità che il credente ha di esprimersi in una lingua da lui mai studiata e che gli rimane sconosciuta anche mentre parla. Tale linguaggio è diverso da individuo a individuo, articolato ma incomprensibile, è una forma di preghiera. E una preghiera nello spirito, non intralciata dai pensieri della carne, priva di interpretazioni umane, capita chiaramente solo da Dio. E un modo di parlare con l'infinito esternando sentimenti che non si saprebbero e non si potrebbero manifestare. Altrimenti, chi parla in lingue si edifica, riceve potenza, stimola la propria fede. Questa è una risposta che si dà per esaltare questo dono, anche se bisogna sempre vedere altri aspetti di questa verità. Il parlare in lingue non è sempre un criterio di spiritualità. Lo dimostra il fatto che l'Apostolo Paolo qualifica come carnali i corinzi che eppure ne erano in possesso. Perciò l'atto di spiritualità di chi possiede il dono di parlare in lingue a lui sconosciute, al contrario, sta proprio nell'evitare di esercitarlo qualora non rechi qualche cosa di utile come una rivelazione o consolazione o incoraggiamento. Inoltre, per un esame obiettivo, occorre riconoscere che parlare un linguaggio sconosciuto non è un fenomeno specificatamente cristiano, perché esso era diffuso in quasi tutte le religioni antiche, ancora prima di essere praticato dai cristiani. Lo si trovava nei templi pagani dei misteri di Eleusi e di Delfo, e, oggi, viene praticato fra gli Zulu da tempi immemorabili. Inoltre lo praticano gli stregoni del Paraguay, gli squimesi della baia di Hudson, mentre i sacerdoti buddisti e shintoisti, i sufi musulmani, parlano in lingue straniere e statiche. Questa realtà dovrebbe portare ogni credente ad avere un cauto rispetto nei confronti del parlare in lingue, ma soprattutto a cingersi di tanta volontà per recare qualcosa di utile alla Chiesa. L'unico modo per essere utile alla Chiesa è l'espressione di una virtù cristiana filtrata dall'amore di Dio. E proprio per questo prendiamo in esame ciò che Paolo ha detto in merito all'amore. L'amore è pace Nuovo Testamento e la pazienza è una grande virtù che rende possibili tante benedizioni. E il dono delle lingue deve essere esercitato proprio con questo obiettivo. C. È chi ha fretta di voler parlare in lingue perché si sente menomato di qualcosa, ma credendo alle parole di Paolo, cioè che non tutti i credenti sono costretti a parlare in lingue, chi ha posto fede in Cristo aspetterà di poter parlare in una lingua a lui sconosciuta, ma se questo non dovesse avvenire, pazienza! Sta scritto che Dio distribuisce i doni come vuole, 12.11, per cui è più saggio aspettare con pazienza il volere di Dio che raggiungere i propri obiettivi. Non vale forse più la pazienza del parlare in lingue, se è vero meno, e lo è meno, che vale più l'amore che parlare in un'altra lingua. Senza amore non valgo nulla e mi manca tutto, mentre se non parlo in lingue non mi manca niente dell'amore di Dio. L'amore è benevolo. La persona benevola è quella che è ben disposta verso qualcuno. È una persona affettuosa, tendente all'amicizia. Questo mancava proprio tra i credenti di Corinto. Essi litigavano fra di loro e intanto pregavano in lingue. Forse per questo si sentivano a posto, ma non erano ben disposti gli uni verso gli altri. La loro buona e reciproca disposizione d'animo sarebbe stata molto meglio del parlare in lingue. Così almeno dice Dio. L'amore non invidia. L'invidia rode ogni relazione, soffre per quello che non ha e per quello che gli altri posseggono. Si può desiderare di parlare in lingue solo perché un altro lo fa, solo perché ci si crede più spirituali e, questo, non è un atto d'amore. Ognuno possiede le caratteristiche che Dio gli ha dato e non essere soddisfatto di questo si disonora il nostro Creatore. Un istrice che volesse essere un daino potrebbe anche diventare un bell'animale, ma non sarà utile allo scopo per cui Dio lo ha creato. Posso anche parlare in lingue, posso anche essere appagato delle mie preghiere, ma se chi mi è accanto esce senza ricevere nulla da Dio, a cosa è servito il mio dono? Lo scopo principale è esercitare il dono o edificare la Chiesa. Sono felice per le qualità altrui, oppure ho bisogno di mettermi in mostra per sentirmi realizzato. L'invidia a volte porta a cercare grandi cose e spesso non riesce a farci capire che parlare in lingue è molto meno importante del fare il bene al mio prossimo. L'amore non esse via al Nuovo Testamento a divanto tra i credenti che parlavano in lingue, ce n'era abbastanza. C. È chi si vantava di essere discepolo di Paolo, chi di Pietro, chi di Apollo. C'era chi si vantava pure di avere un certo dono, come chi si vantava di appartenere ad una chiesa spirituale. L'amore non si vanta. Chi parlava in lingue pensava tuttavia di essere particolarmente benedetto, mentre l'Apostolo Paolo mise in luce il grande limite del parlare in lingue a lui sconosciute, e cioè che queste servono per i non credenti ma non hanno utilità per i credenti. L'amore non esse i gonfia a gonfiarsi è un atto di orgoglio, e parlare in lingue spesso procura nel profondo del cuore una certa esagerata valutazione di se stessi. Io parlo in lingue e lui no, io ho una speciale comunione con Dio mentre mio fratello no. E è molto difficile parlare in lingue e sentirsi uguale a chi non lo fa. Non sono opinioni esagerate, perché chi parla in lingue secondo alcuni credenti crede di aver realizzato una seconda esperienza dopo quello della nuova nascita, per cui chi non lo fa, poveretto, non ha avuto questa benedetta seconda esperienza. Per quanto si sforzi di sentirsi uguale agli altri credenti che non parlano in lingue, chi parla in lingue a lui sconosciute si vedrà sempre diverso e superiore agli altri. Se qualcuno ha delle riserve su questa opinione, perché continuare a credere di aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo mentre gli altri no? Se uno non ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, come può essere uguale a me che l'ho ricevuto? Molto difficile non gonfiarsi, non ti sembra? L'amore non esse i comporta in modo sconveniente. Nuovo Testamento, il comportamento sconveniente si giudica a seconda della cultura. Questo aspetto relativo all'amore è molto importante, perché la morale non è uguale per tutti. In Giappone, per esempio, fanno il bagno nudi uomini e donne assieme. E comportarsi in modo diverso in quel paese è sconveniente. Applicando tale principio al parlare in lingue, per non perdere mai di vista l'obiettivo dell'amore, ci si esprimerà in altre lingue, nell'eventualità che vi sia chi possa interpretare. Diversamente, ci si comporterebbe in modo sconveniente perché non vi è alcuna utilità nell'esprimersi in modo da sembrare un barbaro o un pazzo a chi ascolta. L'amore pensa agli altri e non solo a se stesso. Se i credenti facessero a gara nel cercare di edificare gli altri, ci sarebbe molta meno confusione e divisione. Se anziché cercare solo la giustezza di un'azione, si cercasse anche il bene e la gioia del prossimo nel non fare cose sconvenienti, non si farebbe come facevano i credenti di Corinto. L'amore non cerca il proprio Nuovo Testamento e resse proprio un istinto di natura cercare il proprio interesse, e non è neppure un male. Ecco perché l'Apostolo Paolo scrive che ciascuno non cerchi solo il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 1 Corinzi 10.24, Filippesi 2.4. L'amore, dunque, non pensa solo a se stesso. Chi parla in lingue fa bene, ma se nel fare questo non cerca anche il vantaggio o l'interesse degli altri. Per amore se ne dovrà astenere, perché cadrebbe inevitabilmente in un'azione volta a soddisfare solo se stesso, e questo si chiama egoismo. Perfino nell'atto sessuale, nel quale non ci sarebbe niente da dire, un simile atteggiamento risulta sbagliato. Generalmente sono i bambini che pensano solo a se stessi. Per questo Paolo invita i Corinzi a non comportarsi come tali e, proprio, in relazione alle lingue. 14.20. L'amore non si inasprisce. Inasprirsi significa diventare aspri, cioè agire con maniere poco generose e delicate. Chi parla in lingue generalmente è soddisfatto del suo stato spirituale, ma il suo appagamento non deve indurlo poi ad essere intollerante verso il prossimo. Sembra un'esortazione infondata, ma dobbiamo tutti ammettere di essere più comprensivi quando si soffre, e molto meno quando realizziamo esperienze spirituali particolari. Conosco persone che parlano in lingue che sono spesso inasprite perché altri, che hanno posto fede in Cristo come loro, non parlano in lingue. La cosa fa pensare. L'amore non sospetta il male o non lo addebita. Chi parla in altre lingue non deve pensare male in merito a chi non agisce come lui, anche perché è scritto che non tutti i credenti devono parlare in lingue. Sono sicuro che chi vorrebbe che tutti parlassero in lingue sia motivato da un atto di amore. Ma quante volte quello che chiamiamo amore poi non si rivela come tale? Perciò è saggio quanto credere di più ai piani insondabili di Dio che alle nostre motivazioni. E chi sono io da mettere il dono del parlare in lingue in una posizione superiore rispetto ad altri doni se Paolo stesso vi ha trovato tanti aspetti negativi in quanto si parla solo a Dio, non si è comprensibili alle orecchie di chi ci ascolta, si edifica solo se stessi, si parla al vento e non a chi si è attorno, perché l'intelligenza non viene usata, perché non comprendendo ciò che ode chi ascolta non può neppure dire Amen, perché dove tutti parlassero in lingue, entrando un estraneo o un semplice uditore incredulo ascoltando una moltitudine di suoni incomprensibili, li riterrebbe dei Se non tutti sono costretti a parlare in lingue, volere che tutti i credenti parlino in lingue è contro la giustizia di Dio. Oppure sbaglio. L'amore gioisce con la verità. Un credente che parla in lingue dovrebbe essere soddisfatto per come vive la sua relazione con Dio e dovrebbe gioire, anche se un altro credente non prega in lingue. Primo, perché si fa capire. Secondo, perché usa l'intelligenza. E terzo, perché gli altri possono essere edificati e dire Amen. E non è poco. L'amore soffre ogni cosa. Se parli in lingue a te sconosciute può darsi che tu sia intollerante verso chi la pensa diversamente. Ma se ami e soffri perché desideri un'armonia completa, sarai felice che un altro credente la pensi diversamente, anche se segue Gesù Cristo in un altro modo. Forse come te, o forse meglio di te. La tua gioia sarà una prova che il tuo dono è filtrato dall'amore. L'amore crede a Dio ogni cosa per amore. Chi parla in lingue a lui sconosciute dovrebbe credere che altri fratelli la vedono sì diversamente, ma non sono nell'errore. Questo non è un principio per tutte le verità cristiane, ma visto che parlare in lingue o meno non è questione di salvezza o perdizione, è saggio seguire Gesù con le proprie convinzioni e lasciare il giudizio degli altri a Dio. Ricordati che ognuno renderà conto di se stesso davanti a Dio. Ro 14.12. L'amore sopporta ogni cosa. Molti credenti che parlano in lingue sono in grado di sopportare qualsiasi conversazione in merito a tante dottrine, ma per quello che riguarda parlare in altre lingue non ci sono dibattiti. Per alcuni tutti i credenti devono parlare in altre lingue, punto e basta. Questo non dovrebbe farti pensare. E forse un atto d'amore, non riuscire a parlare serenamente mettendosi in discussione? Se tu non sei in grado, dovresti seriamente riflettere. Il finale di queste valutazioni è questo. Per quanto io possa essere convinto, per quanto possa essere nel giusto, per quanto veda nella Bibbia confermata la mia tesi, io sono sempre obbligato a mettermi in discussione, ma soprattutto a agire sempre con quell'amore che usa la saggezza di Dio. Quella saggezza che è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia. Diversamente, Io non valgo nulla e nulla mi giova. Sta scritto che ciò che rende caro l'uomo è la bontà, Proverbi 19:22. Ma non è mai scritto che parlare in lingue ci rende preziosi agli occhi di Dio. Nel dubbio, io che non parlo in lingue a me sconosciute. È già un'impresa parlare bene in quelle che conosco, ricerco sempre ardentemente l'amore. E qui sono sicuro, anzi sicurissimo, di non sbagliare, perché l'amore non verrà mai meno. Vale ora e per l'eternità. Ottobre 2009. Ellero,